Oddio, oddio, panico. È inutile. Per me il presepe è la cosa più bella che c'è a Natale, ecco. Non è vero, è più bello l'albero di Natale. Ma il presepe è tradizione. Il presepe è da vecchi, vuoi mettere l'albero di Natale giovane, fresco e frizzante, invita a festeggiare. È come un buon bicchiere di spumante. Lo sorseggio in compagnia. Ma stai scherzando? Il presepe è tradizione e calore. Ecco, è come una buonissima grappa che ti riscalda dentro. Ecco, questo è. E poi a me piace perché mia madre me lo faceva sempre. Perché diceva che io ero bello come il bambinello. La mamma. Certo, la mamma. Sai che c'è? Quest'anno è Natale. Festeggiatelo con bambina. E addio cucchiona. È inutile. Quando si parla di suocera, prende fuoco. Santa knows that we're God's children. Foku, grappa biologica, giovane Barrique. Accendi il Natale con Foku. E sai cosa bevi? Eccoci! Salvatori e salvatrici della lingua italiana. Bentrovati e bentrovate. Più o meno. Finalmente, dopo 2 settimane di malattia. Che continua. Suddivise a turno in 10 giorni più 10 giorni l'una e l'altra. Siamo finalmente sopravvissute, ma non troppo. Non troppo, la sfiga. Siamo ancora un po' così moccicose. Senti. C'è ancora qualche traccia di muco in quelle narici. Sì, penso proprio di sì. E quindi dovremo disinfettare il parasputi dei microfoni. Soprattutto per il bene degli altri DJ. E la vodka però mi dicono che è un'ottima aspirina. Anche le patatine. Quelle sempre e comunque. La cura per tutti i mali. Ebbene, come siete stati senza di noi? Male. Malissimo, di sicuro. Se volete comunicarci la vostra malinconia, perché, che so, 2 settimane senza Brusca, come fai? O il vostro risentimento nei vostri confronti. Oppure il, ma perché non siete continuati a rimanere a casa con la spina sul comodino? Le buste con l'antrace. Allora scrivetecelo a postawomat@insiberia.net. Esatto, potete anche facebookare volendo. Guarda. Radio trattino Wombat trattino Firenze. Oggi abbiamo invertito la postazione. Ho un microfono che non sono abituata a utilizzare, quindi è un gioco di equilibri tra il mento, il parasputi, l'occhio, il parasputi e il bicchiere. Bene, una nuova prova per questo nuovo anno scolastico partito in ritardo, come l'anno accademico dell'università. E con 15 minuti, il quarto d'ora accademico. Bene, no, dai, 10 minuti tra spot meraviglioso di grappa Foku. Mamma mia. E la nostra fantastica Piglia sigla. Piglia fuoco. E io direi anche un bellissimo nuovo sottofondo. Oh sì. Perché ci vuole. Adesso ci metterà un po' a partire, ma sentite? Poi lo abbassiamo, eh. Non è Uru. Ma lo sapete che abbiamo un ospite questa sera in trasmissione? Eh? Silenziosa. Norm Chomsky Marion. No. Attenzione. E controlla. Che cosa sarà? Stiamo prendendo tempo, sì. In acqua un pesce Tarzan, ecco. Nel salto vola Tarzan. Ci dovrete sopportare questa sera con questo sottofondo. Che vado a un po' a sfumare. Che ci accompagnerà tutta sera perché il perché tema vi vogliamo male. Vi vogliamo male. E il tema, e anche la linguistica vi vuole male ovviamente. A voi sì, a noi no, sì. A noi ci adora. Ci adora e noi adoriamo lei. Perché parliamo di una cosa difficilissima, il più grande incubo proprio di tutti gli studenti di lettere. Cosa fai? Niente. Mi scaldo le dita. Mi scaldo. Perché ho toccato il microfono qui, era gelido, allora. Brr. E, come mi vengono i brividi, no, per anche tutto. Anche per il mio ricordo del 24 in questo esame, perché parleremo, ci siamo, ce l'abbiamo fatta, della frase, dei sintagmi della frase, soprattutto la loro rappresentazione in... Che bella moglie Tarzan! Alberi, ovviamente, se no che ci sta a fare Tarzan? Non è un caso che tutto parlasse di alberi di Natale. Esatto, di alberi di Natale. Io avevo l'incubo di aver iniziato la trasmissione col microfono spento. Tutto può succedere. Tutto può succedere all'Accademia della Brusca. E via. E partiamo. Partire, iniziamo. Iniziamo dicendo che cos'è la frase. Cappellino introduttivo. Come la inquadriamo? Come un'entità, un ectoplasma. Magari abbasso un altro po'. Un'entità linguistica che funziona come un'unità comunicativa, quindi costituisce un messaggio. Tutto chiaro, no? Sì. Nel gergo la conosciamo come predicazione. Una predicazione, esatto. Diciamo così. Però abbiamo anche diversi tipi di frase, no? In particolare la frase nominale che ci interessa particolarmente per questo argomento. Abbastanza, una di quelle che ci interessa. Che è una frase senza verbo. Buona questa torta. È la frase semplice che è costituita da un'unica predicazione che si può chiamare la proposizione. Tutto chiarissimo. Esatto. E tutto questo ambaradan di frasi nominali, senza verbo, di preposizioni ha bisogno di essere analizzata e noi ne andiamo ad analizzare la struttura. Perché? Come fai, chiederete a non farlo? Voi. Perché? Perché sì, perché c'è un po' di sadismo in tutto quello che riguarda la linguistica. Quanto tempo hai impiegato per comprendere la struttura degli alberi? 6 anni. Brava. Sono lenta. Anch'io. Volevamo dare un po' un conforto a tutti i ragazzi che studiano linguistica, insomma, che si trovano a dover fare questi esami, a parte i geni, che gli alberi li capite, li capirete arrivando alla maturità, quindi dopo la laurea, verso i 30 anni, ok? Perché prima non ci si fa, uno prima si fuma le canne o pensa a uscire o ha l'esame di storia contemporanea da dare perché lo preferisce giustamente queste cose e poi invece tutto torna nel suo equilibrio e gli alberi vengono finalmente assorbiti. Eh sì, proprio così. Così dicono, io in realtà ancora ci sto lavorando, però devo dire che un anno fa finalmente ci ho rimesso mano dopo svariate volte e ho detto, ah ma già, sì, ma ora è tutto chiaro. Quindi secondo me c'è speranza per tutti. Mi hai detto una cosa prima fondamentale in macchina, che era, non mi ricordo più, ma era una cosa di grande consolazione. Pro piccolo, pro grande, no? Non prima di quello, sulla curva, mi hai detto un'altra cosa, aspetta. Mi hai detto, che va tutto preso così com'è, certo. Senza farsi troppe domande. Certo, SN, così. SN, vai. È così, non c'è nient'altro da scoprire, è veramente così. Facciamo una piccola analisi della struttura delle frasi. Vai. Poi magari nello specifico faccio l'elenco, esatto, di quelli che sono tutti i sintagmi. Che ne, esatto, dici? Esatto, perfetto. Vai, sorella. Allora, pronti per il ripassone. Il principio generale che noi seguiamo quando dobbiamo fare un'analisi, no, di una struttura di una frase, logica, grammaticale, più logica che altro, è un principio. Noi teniamo conto di un principio generale che è la scomposizione di questa frase, no? O segmentazione. La frase si scompone in elementi più piccoli della frase stessa, no? E vengono chiamati costituenti. Questo è un metodo, ed è il metodo di cui vi stiamo parlando stasera, degli alberi etichettati. Partiamo dal macro. Un albero, andate su Google e cercate albero etichettato linguistica, se non ci state seguendo, e l'albero etichettato viene chiamato anche indicatore sintagmatico della frase. Albero che può essere sostituito in caso di necessità tipografiche dalle parentesi quadre che rendono visivamente meno chiara la struttura dei sintagmi e dei modificatori, esatto. Però in caso di materiale cartaceo più ridotto è più pratico poi etichettarle con le parentesi quadre e i simbolini ESN, eccetera, come diremo, esatto, dopo. In maniera un pochino all'appendice più... all'appendice della frase. Esatto, un pochino più ristretto, ecco, quindi per motivi tipografici. Ma non li preferisco, preferisco l'albero. Anch'io perché... perché la mia mente ha bisogno di cose di una più chiare. Una rappresentazione di alberi come Tarzan. Esatto, sì. Se noi vi diciamo F, S, N, S, V, V, Art, N, non vi verrà in mente nulla. Ma sono tutti gli elementi, diciamo, i sintagmi e... non solo, che costituiscono una frase. Ci illumini, dottoressa Nenia. Vi illumino. Sono tutte quelle che tradizionalmente vengono definite parti del discorso. Iniziamo a focalizzarle. Sono 9: articolo, nome, aggettivo, pronome, verbo, avverbio, preposizione, congiunzione e interiezione. Queste cose le abbiamo viste anche in passato. Quinta ok, elementare. Qui non si. Cioè, siamo alle basi. Alcune di queste parole, però, queste classi di parole, potrebbero espandersi con un'aggiunta di altre cose, di altri elementi linguistici. Queste parti del discorso vengono modificate. Da che cosa? Dai modificatori. Per esempio, facciamo subito degli esempi. Il nome, che è la testa del sintagma nominale, che si chiama SN, può essere modificato da qualcosa. Ma secondo te, se noi facciamo proprio l'esempio di una frase? Facciamo l'esempio di una frase. Prima, che forse più... Allora, l'abbiamo mai detto che cos'è la testa? Che cos'è la testa? Allora, vediamo un po' da dove possiamo partire. Ragazzi, la testa. La categoria principale del sintagma è la testa. Il sintagma poi a sua volta può essere interpretato come un'espansione o una proiezione, ok? Per esempio, diciamo che è l'elemento, la testa è l'elemento centrale di un sintagma, ok? Qui ho una frase io carina, bellissima. Oh mamma. Veramente usiamo quello, ok, ci sto. È molto in tema, in linea con i tempi che corrono, con il nostro maledetto governo. Ma questa radio è un porto di mare. Il poliziotto catturò il ladro a mezzanotte. Bellissima frase, fantastica. Allora, facciamo il punto. Quanti sintagmi ci sono in questa frase? Il poliziotto catturò il ladro a mezzanotte. Sono 4. Ok. E si principia con quello nominale, per l'appunto, che è il poliziotto. No? È il soggetto della nostra frase. E che ha come testa proprio... Poliziotto. Poliziotto. Poliziotto. Potevo rimanere offeso. Il modificatore è tutto quello che poi gli starà accanto a questo. Quindi, sintagma nominale, perché il sintagma nominale non è necessariamente solo poliziotto, può, esatto, avere delle variabili, poliziotto, attorno. Poliziotto. Poliziotto. Per esempio, un modificatore potrebbe essere l'articolo che, esatto, lo precede, il poliziotto, perché dice proprio lui, il poliziotto, quel poliziotto potrebbe essere un altro. Esatto. Invece sotto abbiamo un sintagma verbale, che è il verbo. Catturò. Quindi, catturò il ladro, catturò e la nostra testa. Esatto. Testa del sintagma verbale. Perché? Perché è l'elemento che dà il carattere, no? L'elemento centrale del sintagma del verbo. Esatto. Il ladro che cosa sarà? È un gran modificatore in e questo che momento. Che gran pezzo di modificatore. Composto da un articolo e ovviamente da un sostantivo, nome, ladro. Esatto. E quindi, se noi ci raffiguriamo, rappresentiamo questa frase nello schema degli alberi etichettati, abbiamo una sorta di tetto, no? Sì. Il comignolo, diciamo, è il sintagma verbale. Sotto i due vertici, diciamo, del tetto abbiamo il verbo e poi ovviamente un altro sintagma nominale in questo caso, perché il verbo è catturò e il sintagma nominale è il ladro. Ok. Terzo abbiamo il sintagma preposizionale, cioè quello introdotto da una preposizione, che in questo caso è a mezzanotte. La A è la preposizione che introduce, che fa anche da testa del sintagma, e si riferisce appunto a mezzanotte. Esatto. Quarto sintagma e ultimo, molto buono. La testa è buono perché? Perché è un sintagma aggettivale. Esatto. Quindi sintagma nominale, sintagma verbale, sintagma preposizionale, sintagma aggettivale. Per quelli lenti come me è mvpa. Mvpa. Esatto. Le teste sono la N di nome, la V di verbo, la P di preposizione e la A di aggettivo. Esatto. È ma molto, che diciamo, è molto, che dicevi, è molto, scusa, molto, hai detto? Niente. È molto chiaro, sì. con le sigle accanto è anche più semplice da identificare. Esatto. e da memorizzare. Per chi volesse le dispense può scrivere a posta@insiberia.net. Esatto. Ma che dite di ascoltarci una bella canzone che ha sempre a che fare con gli alberi dappertutto, solo alberi quest'oggi. Solo alberi. Solo ed esclusivamente alberi. E quindi io direi che sull'urlo di Tarzan si schippa e andiamo con un pezzo. Are you coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where dead man called out for his love to flee? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight. Night in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where next of hope side by side with me? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? They strung up a man, they say we were afraid. Strange things that happened to you, stranger would it be? You met and midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? Thank you. pezzo, avete capito? Che pezzo che vi abbiamo messo. Ma ci sembra il caso di sdrammatizzare su tutta questa poi questa sinfonica. Ci rifaremo con gli altri pezzi, soprattutto con il nostro sottofondo musicale. Eccolo! Grazie. Questo per annunciarvi che ora parleremo di signore. Si era, Albertino si era impossesso. Siamo alle giostre. Le giostre moldave. No, io questa cosa la racconto molto brevemente. Io vengo da una terra di giostrai. Giusto. Perché la zona depressa da cui provengo io, tra Ferrara, Mantova, è soprattutto dalle parti di Moglia, in provincia di Mantova, è terra di giostrai. Per cui attenta a quello che dici, perché io li conosco molto bene. Soprattutto cognome tipico del giostraio delle mie parti è Tamassia, tutte giostre. E io ho un prozio Tamassia, attenzione, c'è un sedicesimo di giostraio in me. Ma si vede e si sente. Insomma, tutto questo per dirvi che non c'entra assolutamente un cazzo con quello che diciamo ora. I ruoli semantici, cioè, facciamo una cosa. Vi abbiamo spiegato in che cosa consiste un albero, come diciamo viene rappresentato. Schippiamo perché vi vogliamo bene. Un esempio di, senza andare troppo nel profondo del cuore dell'albero. Esatto. E non stiamo a spiegarvi la valenza dei verbi, ma valente, bivalente, monovalente, trivalente. Lasciamo Figuriamoci. Stare. Partiamo subito con le cose molto divertenti, ok? Ruolo semantico e ambiguità. Qua ci voleva Jetem, qua ci voleva Jetem sull'ambiguità. Invece abbiamo Tarzan. Che bella casa Tarzan, che bella moglie Tarzan. Due DJ molto sensuali. Sì, sensualissime. Tutte pelose oggi. Anche gli ospiti, tutto pelo. Tutto peluche. Non perché non siamo andate dall'estetista. No, perché fa freddo il pelo. L'abbigliamento. Siamo pellicciose. Ma insomma, questi ruoli semantici. Allora, abbiamo parlato, no, di un ordine della frase che viene scomposto attraverso questi alberi. Un altro ordine di principi, però, che intervengono nella costruzione ed interpretazione di una frase, viene dato da questi principi semantici che si legano al modo in cui il referente di ogni sintagma, quindi verbale, nominale, aggettivale e proposizionale, dove vi eravate? Quindi il referente di ciascuno di questi sintagmi, quindi l'entità che il sintagma indica, un nome, un aggettivo, contribuisce e partecipa all'evento rappresentato dalla frase. Fate conto di vedere una mega festa dove ci sono tanti invitati e questi invitati interagiscono tra loro. Che bello esempio. Vabbè, ok. No, ci torna tutto. Ecco, e quindi per individuare questi rapporti, no? Queste funzioni dobbiamo utilizzare dei cosiddetti ruoli semantici. O quindi ci spostiamo dalla considerazione della frase come una struttura sintattica alla rappresentazione della frase come un evento. Ta-dan. Quindi la festa senza alcol è struttura sintattica, la festa con alcol e musica è rappresentazione dell'evento. Tutto torna. Principali ruoli semantici. È che questa non se l'era preparata, è venuta lì per lì. Che sono una persona molto intelligente. Ma quali sono questi ruoli semantici? Agente, paziente, sperimentatore, beneficiario, strumento e destinazione. Proprio tutti i ruoli delle persone all'interno di una festa. Sì. Soprattutto cioè, il segnaposto, beneficiario. Capito, c'è scritto Giovanna paziente, Gianmarco beneficiario, Paolo agente, Simona sperimentatore. Chi è lo strumento? Non si sa. Non so, Maria Vittorio destinazione. Maria Vittorio ci piace. Vittorio Maria. Sì, meglio. E finisce in cacciara come sempre. Come al solito. Questo per dirvi che con questa trasposizione degli alberi. È sottofondo. Sia mai. E con questa trasposizione degli alberi riusciamo a effettivamente dare diverse valenze alla frase. E soprattutto queste rappresentazioni ci servono, sono fondamentali per distinguere alcuni rapporti all'interno della frase. Ed è una cosa bellissima questa, perché si chiama... mi sono dimenticata. Perché si chiama... Non ti posso aiutare perché sto facendo altro. Stai facendo altro? No, no, no. È quello che devi dirci tu ora, la... Ok, l'ambiguità. L'ambiguità. In realtà stavo risolvendo un problema tecnico a un piccolo picciui. E infatti si diceva per l'appunto a cosa servono questi alberi. Tutti questi diagrammi fatti ad albero, queste parentesi che ci spiegano come sono suddivisi tutti questi sintagmi, a che serve? Serve, a parte per avere ben chiaro dove gli elementi linguistici vanno a influire su che cosa, ma anche, e questa è la parte più divertente in realtà, a descrivere in modo efficace alcuni casi di ambiguità. Abbiamo già parlato dell'ambiguità, di che significa che una frase può avere due significati differenti e non è chiaro quale si intende in quale momento la frase viene enunciata. E abbiamo per esempio l'esempio più bello, la frase ambigua più bella che abbiamo è il vecchio uomo su una sedia con una gamba rotta. Questa ve la rileggo perché va digerita. Allora... Il vecchio uomo su una sedia con una gamba rotta. Vi siete fatti delle immagini mentali, l'avete analizzata in qualche modo. Una. Allora, questa frase può avere due significati. Nella vostra mente vi si configura prima uno e poi l'altro, un po' come quei giochini della Gestalt, in cui tu vedi prima la lepre e poi l'anatra, no? Allo stesso modo il nostro cervello linguisticamente percepisce questa frase ambigua altalenando un significato o l'altro. Ripetendo, il vecchio uomo su una sedia con una gamba rotta, a questo punto ci dobbiamo domandare: chi è che ha la gamba rotta, il vecchio uomo o la sedia? È qui che vi volevo. Perché qua voglio spiegare i sintagmi. Come perché facciamo? Effettivamente possono entrambi avere la gamba rotta. Che cosa succede? Nella manifestazione dell'albero riusciamo a comprendere che questo significato è doppio, ambivalente, e la struttura chiaramente dell'albero è differente. Allora, proviamo a cercare di immaginare l'albero della frase in cui ad avere la gamba rotta è il vecchio. Abbiamo principale, sintagma nominale. È il primo tetto principale, ok? E si divide in articolo e aggettivo, il vecchio. Successivamente nome, uomo, sintagma preposizionale con la preposizione su, dal quale si dirama un SN che è l'articolo una e nome sedia. Questo chiaramente lo troverete nel sito. Qual è la differenza? Sì. Tutto questo è uguale per entrambi i casi, non serve immaginarlo. La fantasia, l'immaginazione che dovete sviluppare in questo momento qual è? Che con una gamba rotta si può allacciare al sintagma nominale direttamente del vecchio. Quindi voi avrete in questo tetto principale una gambetta che corre lunga verso con una gamba rotta. Significa che quella gamba rotta appartiene al sintagma nominale del vecchio. Stop. E quindi non è il suo modificatore. Ed è il suo modificatore, sta lì come sintagma preposizionale, perché inizia con preposizione con, ma è un grande cerchietto che appartiene al vecchio, punto e basta, rimanda lì. Rimanda in quella piccola punta del tetto, il vertice del tetto, ok? Lo so, è una cosa che non si dovrebbe nemmeno ipotizzare di spiegare a parole, però per radio, per quando vedrete l'immagine è più bello. È bello ed è chiaro comunque. Mentre tutto quello che abbiamo detto finora, nella frase in cui ad avere la gamba rotta è la sedia, cosa succede? Abbiamo il sintagma nominale del vecchio che parte ed è l'apice, il vertice come prima. Poi si va giù, si va giù, si va giù, e questo cerchietto del sintagma preposizionale con una gamba rotta non appartiene più al tetto del vecchio uomo, ma si infila per ultimo, come se si aggregasse per ultimo al sintagma nominale una sedia. Visivamente tutto torna molto più semplice, chiaramente. Giuriamo di metterlo, per chi ci come ha ascoltato immagine, con una massima fedeltà e un po' di preoccupazione, vi assicuriamo che lo troverete. Sì, infatti, lo troverete nell'immagine del podcast del sito. Ed è carino perché effettivamente ci si rende poi conto di quanto sia ambivalente. Oltre all'ambiguità c'è proprio l'ambivalenza della frase. Quindi in sostanza la differenza del significato non si manifesta più nella struttura sintattica, ma proprio nella struttura fonologica. Quello che noi immaginiamo che si sviluppi nella struttura fonologica, però è solo sintattico. E tutto questo ha a che fare col tema della grammatica generativa, fondamentalmente. Torna sempre lì. Quindi, fonologicamente la frase è uguale, noi pensiamo di percepire una differenza fonologica, perché la prima immagine che ci viene in mente quando la risentiamo, cerchiamo di dare una fonologia diversa, ma non c'è, non esiste un'intonazione, una differenza fonologica. È tutta un significato sintattico fondamentalmente di della struttura sintattica, esatto. E che noi però non assolutamente possiamo dire che sono entrambe vere le interpretazioni, dipende, certo, da come collochiamo all'interno di questo albero il modificatore in gamba rotta, a chi lo colleghiamo, esatto, se al vecchio o se alla sedia. È molto semplice. E quindi frase ambigua si disambigua con l'albero. E con questo, ragazzi, fatevene una ragione. Davvero potreste stupire amici e parenti alla tavola di Natale. Zio, non ho capito cosa hai detto. Aspetta, prendete carta e penna e gli fate questa scomposizione. E cazzate a parte, perché questa è una cosa molto seria e anche molto bella, io direi di ascoltarci un pezzo molto romantico. Che siamo romantiche, spezziamo questo sottofondo. Solo romanticismo. E andiamo con il prossimo pezzo. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più, io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del cielo. Sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del cielo, per te e per me, nel cielo. In studio con noi stasera c'è anche la nostra amica Mari, che ha detto: questo pezzo mi fa venire in mente Mike Patton. Molto meglio. Per punizione, per aver detto questa cosa, tocca sentire questo di nuovo. Te la sei cercata. No, molto e meglio che fai finta di niente, stai lì al PC come se niente fosse. Questa è dedicata a te. La cara Sandra Mondaini te l'ha scritta apposta per te. Comunque vaffanculo Gino Paoli, possiamo dire. Un programma di linguistica, di spiegazione. Come riscuotere gran successo semi-innovation dal pubblico. Yeah! 4 minuti di applauso mi merito. Levatemi il mixer, la prossima volta torno al mio posto. Indisciplinata come al solito. Allora. Ma c'era anche quell'altro pezzo che fa ma Tarzan lo fa. Ma Tarzan. E allora fa. Sarà il prossimo. Sarà il prossimo sottofondo. Sì, sì, si mette. Però, tornando un attimo nei nostri panni. Fatto proprio il a gesto tirare di le somme dell'organizzazione pragmatico-informativa. Perché diciamo questa cosa ora? Perché dicevamo prima, diciamo, l'elemento più importante della frase è sicuramente la sua dipendenza da uno schema, chiamiamolo così, sintattico, no? L'intonazione ci interessa relativamente. Senti che chitarre. Però Smoke on the Water. Un pochino, sì, era proprio le tre note c'erano. E appunto parliamo però anche di organizzazione pragmatico-informativa, perché in realtà è molto importante distinguere quali tipologie di frase noi abbiamo nella nostra lingua, no? Sono diverse, sono tante, c'è la dichiarativa, l'interrogativa, l'esclamativa e l'imperativa. Sono tipo, quattro. Ma... mangia, mangia, mangia, mangia, mangia. Guarda com'è bella la lingua italiana. Ora eh? Sarebbe bello provare, questo è veramente un esame che controllo, insomma, sarebbe molto bello provare a mettere in albero questa frase. Oh sì, buona. Perché l'organizzazione pragmatico-informativa di questi tipi di frase si rifà a diversi elementi, no? Cioè, come facciamo ad interpretarle? Abbiamo degli elementi. Come facciamo a dire che è una dichiarativa, interrogativa, esclamativa, imperativa? Abbiamo il tema, l'entità intorno a cui si predica qualcosa. Questo lo scrive veramente il Chiari nel suo libro di linguistica generale, complimenti. Ciò di cui si parla, un tema molto semplice, il o la rema, la predicazione che viene fatta a proposito del tema, com'è, bello, brutto, per esempio, e il dato, l'elemento da considerare noto nella frase, fino al nuovo, l'informazione non nota. Quindi noi abbiamo questi quattro, diciamo, elementi che ci danno un'organizzazione pragmatica, quindi funzionale e informativa della frase. Ma soprattutto abbiamo il focus che si sposta nella frase, come il diaframma di una macchina fotografica, fondamentalmente. A seconda del fuoco potrebbe essere. Forse può essere. Può essere. Ci devo pensare, ma forse sì. Mi dava questa idea, perché è il punto comunicativamente più saliente della frase. Ma di questo temo dovremo parlare la prossima volta. Perché effettivamente sì, ci sono. Il focus è un tema a sé, in realtà, soprattutto legato agli alberi. E quindi, appunto. Io terrei questa, siccome la puntata sta abbastanza densa. Sospendiamo qui l'argomento focus. Esatto, tanto gli alberi avete visto, facendo un breve riassunto, a cosa servono, quali sono i sintagmi che lo compongono e come facciamo a disambiguare una frase ambigua. L'abbiamo capito, non sono esattamente questi tre punti, diciamo, che hanno un po' dato animo a questa puntata. La prossima sarà più divertente o forse più difficile, non lo sappiamo. Il focus può dipende essere. Dipende dagli esempi che scriveremo. Scriviamo noi. Sì, scriviamo negli esempi, saranno più bellini. E i nostri ascoltatori non sanno più cosa gli aspetterà tra le coppie minime che gli presenteremo tra un pochino. Anche. Basta, non vi diciamo altro. Facciamo che ascoltiamo una canzone e poi ci aggiorniamo un paio di minuti con l'agenda. Sì, sì, la burocrazia. E allora, pezzo nuovo. So low and then you leave. rientriamo. Eccoci. Sul pezzo si sfuma. Ecco. 20:54 in diretta su Radio Wombat. E per chi ci ascolta in diretta ascolta di giovedì, perché altrimenti saranno tipo le 10 del mattino di sabato con la nostra replica, oppure le 3 del pomeriggio di domenica. Esatto. Quindi in vista del pranzo e in vista della digestione del pranzo. Oppure della digestione della colazione della domenica, che viene tipicamente fatta alle 2. Oppure il risveglio del Wombat, di tutti i nostri amici il wombatini. Grande risveglio del Wombat. Quindi buongiorno a chi ci ascolta sia di domenica pomeriggio che di sabato mattina alle 10. Perfetto, è sempre un buongiorno. Siamo veramente delle personcine educate, guarda. Un gran buongiorno sempre comunque. Mi dicono che dopo ogni notizia buona ce n'è una cattiva. Io quella buona però ancora non l'ho trovata, ma ne ho una cattiva. Vai. La vuoi? Sì. Ho un appello. Un appello dal No Blogs della Polveriera. Ok. È un appello che ci dice: la polveriera è sotto sgombero, difendiamo le autogestioni. È un appello pubblicato il 5 dicembre e ci dice così. Leggerò solo il primo pezzo, poi voi vi andrete a leggere tutto quanto da soli, perché siete delle persone furbe. Sapete trovare la polveriera.noblogs.org, quindi non serve che ne parliamo tantissimo, però vogliamo comunque sottolineare questo. Venerdì scorso il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio ha approvato, senza alcun preavviso e con il solo voto contrario delle rappresentanze studentesche, lo sgombero degli spazi comuni della polveriera come condizione per l'avvio dei lavori di riqualificazione di Santa Apollonia. Anni fa, diversa era la giunta regionale, uguale il partito, questo progetto di riqualificazione fu presentato con la promessa di restituire un luogo semi-abbandonato e fatiscente agli studenti e abitanti del centro storico. Un progetto che oggi prevede uno stanziamento di 2,3 milioni di euro, ma che nel frattempo è cambiato. Invece che agli studenti, gli spazi recuperati serviranno per ospitare uffici di fondazioni ed enti regionali. Così come il giardino del chiostro interno è stato chiuso per essere cornice e sfondo esclusivo degli eventi organizzati nell'auditorium che la regione affitta. Anche gli spazi del loggiato, fin dagli anni 70 percorsi dagli studenti e studentesse che frequentano la mensa universitaria, dovranno essere chiusi. La polveriera è nata nel 2014 durante le proteste messe in atto dai collettivi universitari contro le sempre maggiori limitazioni di orario delle università e delle aule studio e contro l'aziendalizzazione disumanizzante dei corsi di studio, organizzando assemblee e occupazioni nelle facoltà. In questo contesto alcuni collettivi iniziarono ad auto-organizzarsi per riappropriarsi di ciò che era loro diritto, occupando le stanze del primo piano, inutilizzate da decenni, e imponendo così alle istituzioni di prendere atto di ciò che ignoravano di proposito. Gli studenti hanno dei diritti e delle esigenze e non sono più disposti a credere a vaghe promesse di un futuro felice. Per questo la polveriera nasce come spazio comune. Avevamo bisogno di un luogo aperto a tutti dove fermarci e riflettere, dove incontrarci e condividere per autoformarci, organizzarci e lottare contro una società attenta solo al profitto. E da qui vi prego, rimando a appunto No Blogs e la polveriera, continuate a leggere tutto l'appello che è stato fatto, dove troveremo poi via via anche come aiutare o come aiutare questo gruppo, come aiutare in qualche modo a collaborare alla protesta, a dire no. E alla difesa. E alla difesa del posto. E poi abbiamo chiaramente tutte le adesioni che sono in continuo aggiornamento, sono tantissime. È veramente una presa di posizione della città che fa capire quanto lo spazio fosse frequentato e fosse realmente importante. Quindi, difendi la polveriera, difendi l'autogestione. Difendere l'autogestione. E da qui passiamo subito a sabato 8 dicembre, esatto. Giornata calda. Sì, al parco. Giornata calda per tutto quello che ha a che fare con presidi, cementificazioni e tanti binari veloci. Cosa abbiamo? Allora, vediamo un po'. Partiamo qui dal nostro giardino, dal nostro piccolo comunicello. Comunicato. Sabato 8 dicembre, in contemporanea con tante altre città in Italia per la giornata di mobilitazione nazionale e diffusa contro le grandi opere, che è stata lanciata dalla Valle che Resiste, ovviamente, ci sarà la giornata al parco e al presidio. Alle 10 ritrovo al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, alle 13 pranzo popolare al presidio con prodotti genuini e alle 14.30 assemblea popolare, interventi dal bel paese che resiste, video e collegamenti telefonici dalla Val di Susa Notav e dal Salento Notap. Le informazioni le troverete su Presidio No Inceneritore in Aeroporto e da lì via, insomma tutti gli altri, però già da questo dovrete trovare informazioni. Tra l'altro la visita al lago di Periotera e all'Oasi di Val di Rose è molto molto molto bellina. Anche perché tanto se le fate adesso bene, se le fate d'estate ci sono le zanzare, fatele sabato 8 dicembre. Le previsioni danno sole, una minima di 4 gradi e una massima di 14. Dai, ma si starà da Dio. Mentre in contemporanea chiaramente a Torino c'è il corteo Notav per dire no al precedente sì scandaloso che data era? Il quando è stato il corteo Sitav, quella pagliacciata fatta da sessantenni che sperano di trovare ancora lavoro. Aspetta, dalle grandi promesse. Dovrebbe essere stato il 24 novembre, sabato 24 novembre, sbaglio? Insomma, comunque, sì, insomma, poco tempo fa. Andate in pensione, quindi andate tutti in Portogallo in crociera. Oh. Quindi diciamo che o si va in piana o si va a Torino, ecco. L'MSC con l'inchino vi aspetta, andate. Detto questo, detto questo, baci, abbracci e saluti, perché tantini. Adesso dobbiamo lasciare lo spazio a Noto Date che sta aspettando qui fuori, impaziente, infreddolito, perché ha bisogno di entrare in regia e fare la sua trasmissione 8 Hz. Esatto, ascoltate Radio Wombat, date un occhio al palinsesto che è in continuo cambiamento, ci sono un sacco di novità sempre. E io direi anche, per non far tardi al nostro compare, ci salutiamo così. Questo nostro compare di radiofonico e nulla, vi aspettiamo sabato. Con un sì, certo. E ci risentiamo giovedì. Senza, stasera non si chiude con nessun pezzo. No, stasera abbiamo avuto tutto il tempo il sottofondo, quindi se no poi troppa musica, esatto, la gente poi piglia, va nel delirio. E allora aspettiamo anche un sottofondo per la settimana prossima. Che grazie, ci sarà. Arrivederci, baci, un bacio abbracci. A tutti. Ciao a tutte le trasmissioni. Ciao.